sera nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 18 dicembre, il sole in regione sorto alle 7.32 tramonterà alle 16.41. Venerdì ci sarà luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Lillo Montalto Monella. Influenza aviaria e peste suina africana sono le due emergenze veterinarie a cui prestare attenzione in questi giorni, anche in regione. Nessun allarme, ma è meglio sapere come confrontarsi e comportarsi. Ne parliamo nel servizio di apertura per passare poi al mondo dei fitofarmaci e al loro rapporto con il mondo dell'agricoltura biologica. Per la rubrica del vino è la volta della fermentazione mallolattica, un passaggio strategico, come è strategico in questi giorni, conoscere le normative e precauzioni per chi volesse cimentarsi nella preparazione e accensione dei fuochi epifanici. La valeriana, alias Ardielut, è al centro della rubrica dell'orto, mentre per quella che dedichiamo all'agroalimentare, saperi e profumi di Natale con il marzapane. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana chiudono la puntata. Sono due le emergenze veterinarie che stanno, per certi versi, assillando gli allevatori della nostra regione. Una quella dell'influenza aviaria e l'altra quella della peste suina africana. Che fare? Lo chiediamo a Manlio Palei, direttore regionale del Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria. Iniziamo dall'aviaria che ha dei casi in regione. Come ogni anno abbiamo il passaggio degli animali provenienti dalla Russia che vanno verso l'Africa e quindi come tale abbiamo dei casi. Quest'anno noi in Friuli Venezia Giulia abbiamo avuto un focolaio nel Pordenonese, a Porcia, un focolaio rurale, 32 capi circa, che è stato aperto e chiuso, nel senso che in giornata sono stati tutti quanti abbattuti come vuole la norma, quindi chiusura del focolaio. C'è stato per 10 giorni una zona di restrizione e dopodiché fortunatamente non abbiamo più avuto casi negli allevamenti. Viceversa è dell'altro ieri il riscontro da parte dello zooprofilattico sperimentale delle Venezie di 4 casi di positività in uccelli selvatici rinvenuti nella laguna di Grado e quindi come tale non sono dei focolai ma sono dei casi che vengono segnalati al Ministero della Salute come in tutta Italia, in tutte le zone lagunari abbiamo positività e sono 2 anatre, un cormorano e un fischione. Cosa fare? Cosa deve fare l'allevatore? Cosa fate voi veterinari? Allora, l'allevatore, ormai la norma è da parecchi anni in vigore, i grossi allevamenti e anche i rurali di una certa entità lo sanno già. Gli animali devono essere tenuti prevalentemente al chiuso, qualora non possibile, la cosa principale da fare è coprire con una rete antipassero dove gli animali mangiano, perché il selvatico passando vede il cibo, scende per andare a mangiare e come tale, essendo il passaggio dell'influenza aviaria è orofecale, soprattutto fecale, quindi defeca negli intorni e scarica il virus nei nostri allevamenti. Pertanto una rete antipassero che copra la zona dove gli animali mangiano. Passiamo alla peste suina africana, ricordando che, come anche per l'aviaria, non interessano la salute umana. No, assolutamente, sì, non sono patologie che mettono a rischio la salute umana. Le peste suine africane abbiamo, viceversa, 2 focolai, purtroppo, in Italia, grossi, uno che è a cavallo tra le regioni Piemonte e Liguria e uno a Roma, come tutti ben sanno. Sono 2 focolai nati non da selvatico, nel senso che non sono state, la trasmissione non è avvenuta attraverso il cinghiale, ma purtroppo attraverso l'uomo. E anche qui sono misure di biosicurezza fondamentali, soprattutto per quanto concerne i rifiuti di origine animale. Evitare di abbandonare i rifiuti, soprattutto di origine animale, suina. Perché? Perché succede che dall'est, che è endemica, arrivano di qua i camionisti, qualsiasi persona insomma, che arrivi dall'est, si porta dietro il panino, il salame, il prosciutto, è un virus resistentissimo, che resiste tantissimo, sia nelle ossa che nella carne che nel terreno, e buttando via i rifiuti si rischia di portarcela a casa. Gli allevatori sicuramente sanno come comportarsi, e noi, comuni mortali, cosa dobbiamo fare? E noi, comuni mortali, dobbiamo stare attenti a queste 4 piccole cose, insomma. Noi, tra l'altro, come Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo messo in atto un piano regionale nostro proprio, all'interno del quale dove abbiamo fatto stampare anche tantissimi volantini che sono lungo le autostrade, a livello di confini, proprio per sensibilizzare la gente a non buttare rifiuti di origine animale in giro. E viceversa, se si ha in giro per i campi, perché si ritrova una carcassa di cinghiale, non toccarla, non avvicinarsi e avvisare subito la forestale, perché lì rientra poi un piano di sorveglianza passiva che è fondamentale, perché il riscontro delle carcasse vengono tutte quante analizzate e in tempo reale abbiamo la certezza se abbiamo o no il virus in regione. I fitofarmaci, qui non riusciamo a dire di no. È il titolo del contributo di oggi di Cristina Micheloni per la rubrica del Bio, dove i fitofarmaci si trattano con i guanti bianchi. Pesticidi o fitofarmaci, comunque quelle sostanze che si usano per difendere le piante dalle avversità, funghi, batteri, insetti, eccetera. Tutti concordi sul fatto che è molto meglio se non ce ne troviamo nel piatto, anche se ce li mangiamo abitualmente, molta meno sensibilità, attenzione e determinazione se invece parliamo del loro effetto sull'ambiente, e nemmeno se ragioniamo sul fatto che ci ritornano, ad esempio con l'acqua che beviamo. Come al solito non è utile fare tutta l'erba un fascio e non tutti i fitofarmaci portano gli stessi problemi, però ora che l'Unione Europea ha deciso di dare corpo alle fondate preoccupazioni di cittadini e scienza puntando al dimezzamento entro il 2030 dell'uso di quelli più dannosi, alcuni stati, tra cui il nostro, stanno tentando di fare ostruzionismo sbandierando lo spettro di fame e carestia. Ciò ha condotto questa settimana la Commissione Europea ad accettare la richiesta di approfondimento di alcuni stati, sempre qui c'è sempre anche l'Italia, ma che in realtà suona molto di più come un tentativo di procrastinare ogni decisione. Questo per rallentare, o meglio per tentare di rallentare, l'implementazione di quello che si chiama piano per l'uso sostenibile dei fitofarmaci. Quasi in contemporanea c'è stato anche un ulteriore procrastinare, quello sul glifosato, dove per un altro anno è possibile utilizzarlo. Questo che è diventato più un simbolo che un erbicida per entrambe le tifoserie, sia di quelli a favore che di quelli contrari. Purtroppo ragionare per tifoserie però è il vero male, soprattutto perché non permette di identificare e ragionare sulle cose più preoccupanti. Un esempio, quando si parla di pesticidi e salute ci si riferisce al cancro e non si accenna all'effetto degli interferenti endocrini, ovvero quelle tante molecole che mimano i nostri ormoni, che sono correlate a disturbi neurologici, a deficit di attenzione, autismo, obesità, diabete, disturbi della fertilità, e sono tutte sostanze attive a dosi bassissime, ovvero se le sostanze tossiche di solito si misurano in ppm, un cucchiaino da tè in un'autobotte è già una quantità che diventa un problematica, gli interferenti endocrini sono drammaticamente attivi a concentrazione da 1000 a 100.000 volte inferiori. Anche qui un'immagine, due cucchiaini da tè nell'intero lago di Barcis quando è pieno. Ma allora qual è l'uso sostenibile di queste sostanze? Semplicemente e solamente non usarle. Se volete approfondire sugli interferenti endocrini, lascio su Facebook un ottimo intervento del dottor Rorai. La fermentazione malolattica è un passaggio strategico per la formazione del vino, come ci spiega oggi il professor Roberto Zironi. La fermentazione malolattica è quindi un processo naturale che si innesca al termine della fermentazione primaria, con produzione di anidride carbonica. Il gas è il risultato della reazione principale che prevede la decarbossilazione dell'acido malico in acido lattico. Nel vino la concentrazione dell'acido malico è variabile da 1 a 8 grammi litro, in funzione della fascia climatica di raccolta e produzione, della composizione del terreno e del livello di maturità del frutto. È l'autolisi del lievito al termine della fermentazione alcolica che produce le sostanze nutritive utili ai batteri lattici che innescono la fermentazione malolattica. Questa procederà fino all'esaurimento dell'acido malico, a meno che non si determinino nel vino cambiamenti di pH o di temperatura. La temperatura ottimale per l'avvio della fermentazione malolattica è compresa tra i 20 e i 22 gradi centigradi. Il pH del vino deve essere compreso tra 3 e 4. I valori più alti sono i più indicati, mentre più si abbassa il pH, più la fermentazione risulta difficile. La concentrazione dell'anidra solforosa è un parametro molto importante per l'avvio di questa fermentazione. Nel vino, l'anidra solforosa è presente in forma libera ed in forma combinata. La prima è costituita dall'ione bisolfito e dal diossido di zolfo. La forma combinata invece è quella legata a vari composti carbonilici, quali l'acetaldeide. Maggiore è il potere di combinazione del vino e il minore è il livello della solforosa libera. L'effetto inibitore della solforosa è infine correlato con il valore del pH. Infatti questo gas è presente nel vino, o perché è prodotto dai lieviti, o perché è aggiunto dall'operatore per fini tecnologici, in funzione del basso pH e della temperatura, si presenta in una forma libera attiva che evidenzia un forte effetto antisettico nei confronti dei batteri lattici. Per controllare la fermentazione emolattica si valutano la concentrazione e il rapporto tra acido lattico e malico, con lo scopo di tenere sotto controllo il pH. Una volta individuate le soglie da raggiungere, si può agire variando i parametri di acidità, temperatura o solforosa. Sarà quindi compito dell'enologo assicurarsi che si verifichino tali condizioni necessarie per l'attivazione della malolattica, mentre dovrà impedire che si verifichino nel caso in cui i suoi vini non la richiedano, conservando il fermentato a temperature inferiori ai 18 gradi e aggiungendo il solforoso dopo la fermentazione alcolica. Quando si desidera avviare la fermentazione malolattica, si mantengono invece nel fermentato bassi tenori di solforosa. Si conservano i vini con le fece fine della fermentazione alcolica ad una temperatura di 18-20 gradi. Si può infine procedere con un inoculo con batteri selezionati ed elementi nutritivi attivi, o contaminare biologicamente il vino aggiungendo un altro vino in cui è già in corso la fermentazione malolattica e di cui i batteri lattici sono attivi. Importante inoltre aggiungere nel vino pH con valori superiori a 3,2, altrimenti può essere utile procedere ad una leggera disacidificazione utilizzando sali minerali alcalini. È un dilemma per molti in questo periodo. Quali avvertenze e soprattutto quali precauzioni adottare per fare i fuochi epifanici in sicurezza e anche secondo le normative? Ci dice tutto l'ispettore della Forestale, Dario Di Gallo. L'esecuzione dei tradizionali fuochi epifanici, Pignarui, è soggetta all'autorizzazione prevista dall'articolo 19 della legge regionale 17/2019. Qualora questi falò vengano accesi nelle zone considerate a rischio incendi boschivi per la medesima legge e dal piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi. In pratica l'autorizzazione, rilasciata dall'ispettorato forestale competente per territorio, è sempre necessaria quando il falò epifanico viene acceso in aree classificate come bosco dalla legge regionale 9/2007. Vengono comprese in queste classificazioni anche le aree confinanti con le superfici boscate per una fascia di 20 metri lineari e i terreni incolti. Questa autorizzazione non è invece necessaria per i falò eseguiti nelle zone individuate a pericolosità nulla dal piano regionale antincendio, ovvero nei terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose e a lavorazione annuale, nei centri abitati, intesi come raggruppamento continuo di fabbricati e di aree a uso pubblico, nelle pertinenze di fabbricati isolati di qualsiasi tipo e nelle aree industriali e artigianali come individuati dagli strumenti urbanistici comunali. È importante comunque precisare che, a prescindere da dove vengano svolti, le esecuzioni dei falò devono venire autorizzate anche dai rispettivi comuni. Per semplificare le pratiche, da quest'anno l'autorizzazione è unica e viene rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, SUAP, che acquisisce i pareri di tutti gli enti competenti precedentemente citati. I pignarui devono venire allestiti con materiale vegetale naturale, non è ammesso bruciare legno trattato come bancali e mobilia. È assolutamente vietato approfittare dei falò per lo smaltimento di rifiuti vari, pneumatici, oli e esausti. In questo caso si ricorre nel reato di smaltimento illecito di rifiuti mediante incenerimento. Nei casi di dubbi o perplessità sul vostro caso o iniziativa specifica, rivolgersi presso le stazioni forestali dove troverete un supporto adeguato a risolvere qualsiasi esigenza. Sara Bosco oggi ci parla di un radicchio classico in questo periodo, apprezzato per la sua resistenza e rusticità, versatile anche nei condimenti. Parliamo della valeriana, alias Ardielut. Oggi mi vorrei occupare della valeriana, o più correttamente valerianella, che è un ortaggio tipico di questo periodo che resiste bene al freddo e può essere coltivato facilmente sia negli orti che sul balcone, un po' in tutta la nostra regione. Questa coltura non ama i periodi troppo caldi e siccitosi, però non risulta essere neanche troppo esigente per le varie tipologie di terreno. È importante solo che sia ben drenato. Può essere seminata dalla primavera all'autunno, sia in pieno campo che in tunnel freddi. In particolare, i tunnel freddi sono ottimali per le semine più tardive. La semina viene eseguita a spaglio o a file distanti circa 15-20 cm, che si riducono a 8-10 cm nel caso vengano coltivate in vaso. Può essere necessario un diradamento, quando le plantule sono emerse, e per assicurare un adeguato spazio di crescita. La semina a file, diciamo che permette una maggior facilità di gestione anche delle malerbe rispetto a quella a spaglio, in quanto si può eseguire la cerchiatura. Durante la coltivazione non ha particolari esigenze, se non un'adeguata irrigazione, in particolare nei mesi estivi che sono più caldi. La raccolta avviene quando le piantine hanno raggiunto una buona grandezza e potrà richiedere una tempistica diversa in funzione del periodo di coltivazione. Questo può avvenire sia tagliando le foglie alla base del colletto affinché si possano eseguire ulteriori tagli, oppure togliendo direttamente tutta la piantina. La valeriana è un ortaggio molto semplice che non ha criticità elevate durante la coltivazione, se non l'insorgenza di possibili marciumi nel caso di terreni che trattengono molto l'acqua o di periodi molto umidi. Risulta essere però una buona alternativa alle colture di questa stagione. Tra le tante belle sensazioni che evocano il Natale ci sono anche quelle legate al sapore e profumo del marzapane, come ci dice oggi Roberto Zottar. Tra tutti i cibi, i dolci evocano suggestivi ricordi perché legati a tradizioni e a momenti di festa. Una sensazione, un colore, un profumo, un sapore sono rivelatori di una realtà che dà emozione e gioia. E come il protagonista della recherche di Proust, soprattutto a Natale, i profumi dell'abete, i biscotti alla cannella, la buccia dei mandarini sullo spolert ci fanno affiorare tempi ormai trascorsi. Tornano i ricordi di infanzia, dell'attesa dell'arrivo di San Nicolò o di Santa Lucia, ma che si tramutano in commosso turbamento la vigilia di Natale, quando risplendono le luci dell'albero. È il momento in cui ognuno rivive il proprio Natale da fanciullo. Nelle tradizioni mitteleuropee, il Natale ha spesso come Madeleine proustiane non solo gli aghi di pino, i mandarini, le gubane e le putizze, ma anche i marzapani. Forse parenti dei Christstollen o dei Weihnachtsstollen tedeschi o dei marzapani di Lubecca, a Gorizia e a Trieste compaiono puntualmente nelle pasticcerie ai primi di dicembre delle stanghette di pasta di mandorla a quadretti bianchi e marrone o color crema con canditi o di noci profumanti di vaniglia accanto a maialetti rosa portafortuna di marzapane. Sono meno dolci e più morbidi dei fruttini siciliani, diversi dal marzapane austriaco o dalla pasta di mandorle francese, per quanto nel 1400 i dolci di mandorle da offrire agli ospiti illustri venissero chiamati a Trieste caliscioni, come i calissons di Arles. Il nome marzapane dovrebbe derivare dall'arabo mautaban, termine con cui si indicava la moneta d'argento che corrispondeva a un preciso quantitativo di impasto fatto con zucchero, mandorle e acqua di rose, anche se qualcuno lo lega a marci panis, ovvero pane di San Marco, dato che la prima ricetta codificata viene da Venezia e risale al 1300. In quel periodo, infatti, la Repubblica Marinara era tra le poche a reperire gli ingredienti più rari e pregiati, come lo zucchero e le mandorle alla base del prodotto. Una volta tanto vi consiglio di comperare il marzapane in pasticceria, ma se proprio volete cimentarvi a casa, senza ricercare il glucosio, provate a frullare duetti di mandorle perlate o di noci con duetti di zucchero a velo e un albume. Aromatizzate a piacere, date le forme volute e fate asciugare all'aria. Chiudo con i ricordi d'infanzia del Natale del grande poeta gradese Biagio Marin. Nona, cogero ancora fantulin, tu me disivi che la notte santa vianiva in terra il buon Gesù bambin in mezzo a tanti angeli che i canta. E me stavo vardà il cielo stelao dal mio barcon coi voci spalancai, me de là un poco gero dormensao e il buon Gesù non veghevo mai. Buon Natale a tutti e buoni marzapani. E con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli in regione. Mercato poco attivo, con prezzi cedenti. Venerdì scorso nelle contrattazioni c'era ricco della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 31,40 e 31,70 euro il quintale, IVA esclusa, il frumento tra 33 e 33,50, l'orzo peso specifico 62,65 tra 28,30 e 28,80 e la soia tra 52,50 e 53 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è aumentato di 4,80 euro il quintale, la soia è diminuita di 5,90 euro. Mantenute in prevalenza le ultime quotazioni dei bovini da macello, le vacche fine carriera di prima qualità sono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,70 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 2,60 e 3,20. In leggera flessione invece le contrattazioni nel settore dei vitelli da ristallo, dove i Bubelga maschi vengono quotati tra 5,80 e 6,30 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi fra 4,30 e 4,70, i frisoni fra 1,60 e 1,90 e i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Rispetto ad un anno fa, le vacche fine carriera sono aumentate di 60 centesimi il chilo, mentre i vitelli da ristallo Bubelga sono diminuiti di 20 centesimi. Migliora il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotato franco stalla tra 58 e 60 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Infine scambi attivi con prezzi al palo nel settore degli avi cunicoli. Il valore dei poli a terra varia da 1,60 a 1,62 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,76 a 3,80, i tacchini maschi da 2,19 a 2,21, le femmine e le faraone da 3,70 a 3,80, i caponi natalizi tra 5,5 e 10, i conigli oltre 2,5 kg da 3,06 a 3,12, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 23 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Arturo Puccillo diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Le precipitazioni degli ultimi giorni si sono sommate a quelle della prima decade di dicembre, già umida e piovosa, e hanno di fatto prolungato di qualche giorno l'autunno nella sua versione più mite, sebbene vi sia stato un breve intermezzo di freddo invernale. Intorno a Santa Lucia, come avevamo annunciato la scorsa domenica, ci sono state un paio di giornate fredde, con temperatura massima in pianura sui 4 gradi, che risulta finora la più bassa del 2020. Infatti, nemmeno gennaio o febbraio abbiamo avuto massime più basse. Ciò riflette la caratteristica dell'anno, sicuramente il caldo. Approfondendo il tema della temperatura, gli archivi ci dicono che è da 10 anni che su pianure costa, salvo locali eccezioni, non si hanno giorni di ghiaccio, cioè giorni in cui la temperatura rimane sotto zero anche durante le ore diurne. Sempre scorrendo gli archivi ritorna in mente quanto è successo 13 anni fa, il 20 dicembre del 2009, quando si registrarono temperature veramente da record, anche inferiori a meno 15 sulla pianura innevata. In una notte, serena e senza vento. Ricordiamo un incredibile meno 18.6 rilevato a Palazzolo dello Stella, seguito da meno 17 di Cervignano, Codroipio, Gradisca di Isonzo e in genere della bassa pianura. Tornando al presente, anzi al futuro, ci aspetta una fase di inversione termica con aria molto mite in quota e freddo notturno, relativo nei bassi strati. Domani avremo velature anche estese che non impediranno gelate notturne in pianura. Di mattina soffierà ancora borino sulla costa. Martedì avremo nubi basse dalla costa alle prealpi con qualche piovigine serale a sud-est. Temperature più miti con zero termico a ben 3.700 metri di quota. Mercoledì passerà un debole fronte con qualche pioggia e aria un po' meno mite in quota, ma con zero termico sempre sui 2.000 metri. Giovedì una lieve rimonta anticiclonica porterà poche nubi, ma foschie o banchi di nebbia notturni in pianura. E da venerdì aria molto mite in quota si espanderà dal Mediterraneo verso le Alpi, riportando lo zero termico intorno ai 3.000 metri, con inversione termica nei bassi strati, nubi basse e ristagno di aria umida, nonché temperature in graduale aumento, specie nei valori minimi. Per aggiornamenti vi invitiamo a seguire i nostri bollettini sul web e sulla RAI regionale. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un altro proverbio friulano dedicato al tempo e al calendario. Nadal al ven une volte l'an, ovvero Natale viene una volta all'anno, e forse per questo che è così bello, aggiungiamo noi. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, il nostro indirizzo mail vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Lillo Montalto Monella e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.